Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come faccio ogni mattina, vi do alcune rapide informazioni di servizio. La prima relativa al sito radio24.it, potrete scaricare anche via podcast e anche abbonarvi tutte le puntate di qualunque trasmissione, non soltanto la mia, che va in onda di mattina presto, quindi potete anche ascoltarla tranquillamente la sera o qualche ora dopo la messa in onda. Lì potete trovare anche il mio profilo e il mio blog Guardie o Ladri. La seconda e ultima informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale riferirvi e spedire i vostri casi, le vostre segnalazioni. Allora, ricorderete che alcuni mesi fa abbiamo trattato il caso di una chiavetta della compagnia telefonica H3G che non era stata richiesta dal cliente. Poi abbiamo scoperto che la richiesta è avvenuta in una maniera anomala all'interno di una manifestazione sportiva, quindi con molti dubbi, e quel caso fu, come dire, risolto con buona pace di entrambi i contendenti, tra virgolette, ovviamente, vale a dire radioascoltatore H3G. Oggi ci troviamo in un caso simile, per il radioascoltatore addirittura più sostanzioso, questa volta nei confronti di TIM, visto che le chiavette in uso di TIM piuttosto che di altre compagnie telefoniche sono un oggetto che ormai ci accompagna quasi nella vita quotidiana. È un caso che non riguarda quindi solo il radioascoltatore, ma potenzialmente una platea più vasta. Ed è per questo che io ho chiamato a parlarne con noi proprio il radioascoltatore che ci ha segnalato il caso, Ivo Pandoli dal Sant'Omero, che è un comune in provincia di Teramo, quindi ci troviamo in Abruzzo. Buongiorno Pandoli. Buongiorno. E ho chiamato a parlarne con noi il responsabile marketing consumer di Telecom Italia, il dottor Fabrizio Gorietti. Buongiorno Gorietti. Buongiorno. Allora, io direi, caro Pandoli, partiamo dal caso che lei ha descritto come, come dire, più grave, peggiore, lei scrive, rispetto a quello che avevamo affrontato qualche mese fa. Allora, ci descriva la sua disavventura e poi vedremo se tale è nei confronti di questa chiavetta di Telecom Italia Mobile. Praticamente io ho sottoscritto in un centro TIM un contratto per una chiavetta internet e niente, ho firmato tutto. Naturalmente, per attivare questa chiavetta il centro TIM mi disse che ci volevano 24-48 ore e niente, alla scadenza diciamo di questo tempo il titolare del centro TIM mi comunica che la chiavetta non può essere attivata perché pare che io sia possessore di partita IVA, quindi non poteva essere attivata. Io a questo punto lascio tutto lì, dico vabbè, se non si può attivare non fa niente, lascio tutto lì, la chiavetta non l'ho mai ritirata. Nel frattempo io faccio diciamo un altro contratto con un'altra compagnia. E tutto qua. Ecco. Mi accorgo però, dopo un paio di mesi, mi arriva un primo pagamento di questa chiavetta TIM, quindi mi accorgo che la chiavetta nel frattempo è stata attivata. Allora, io vorrei ricapitolare, il suo caso è abbastanza semplice nella sua evoluzione, lei si rivolge ad un centro TIM, chiede di attivare una chiavetta, firma il contratto, dovrebbero attivarglielo entro 24-48 ore, quindi due giorni al massimo, però poi è lei che va lì per chiederne conto e gli dicono il blocco sarebbe dovuto al fatto che lei è titolare di una partita IVA. Ma lei è titolare di una partita IVA? No, io sono un dipendente pubblico, quindi non sono titolare di una partita IVA. Benissimo, allora, ricapitolando la parte conclusiva del suo discorso, lei lascia la chiavetta lì, come lei appunto si è espresso, cioè il contratto però lo aveva firmato e si vede recapitato in bolletta il pagamento di questa chiavetta. Il caso mi sembra abbastanza chiaro. Allora chiedo a Gorietti se intanto si riconosce nella descrizione fatta dal vostro ex cliente o cliente potenziale, via, o se c'è qualche precisazione che vorrebbe fare. No, la ricostruzione dei fatti, diciamo, lato cliente è sicuramente corretta, nel senso che le cose sono andate come ha spiegato il nostro cliente, e diciamo però la spiegazione di cosa è accaduto sta nel fatto che quando il cliente è tornato nel negozio e ha chiesto chiarimenti sulla situazione della sua richiesta, in realtà la risposta del nostro centro Dream non è stata del tutto corretta, perché in realtà il processo di attivazione del contratto è andato avanti e intant'è che l'offerta è stata attivata pochi giorni dopo. Qui l'equivoco sta nel ritardo con cui noi abbiamo attivato l'offerta per una serie di malfunzionamenti che abbiamo avuto in quel periodo. Ho capito, quindi all'interno vostro, ma c'era questo errore alla base, diciamo così, che poi ha portato a voi a perdere un cliente e oltretutto ad avere un cittadino un po' arrabbiato nei vostri confronti? Cioè, c'era quell'errore che voi avete catalogato questo dipendente pubblico come un titolare di partita IVA, oppure quella invece era una cosa che a voi risultava? No, noi non c'era questo errore, tant'è che la chiavetta è stata attivata. Quindi se ci fosse stato l'impossibilità di attivare l'offerta su una partita IVA, in realtà l'offerta non sarebbe attivata. Ecco, appunto, attivata. Quindi effettivamente è stata fatta confusione da parte vostra sotto il profilo del trattamento di questa pratica. Il contratto è stato attivato l'8 luglio. Quindi rispetto al giorno in cui il cliente ha richiesto il contratto, che è stato il 2 luglio, noi abbiamo impiegato più giorni rispetto a quelli che avreste dovuto impiegare, però con una notizia di base, diciamo così, che ha portato a perdere il vostro cliente, il fatto che lui sarebbe stato titolare di una partita IVA, cosa che non era. Penso che se fosse data la spiegazione corretta al cliente quando è andato a chiedere chiarimenti nel nostro punto vendita, secondo me l'equivoco si sarebbe risolto. Ecco, a questo punto però torno dal nostro radioascoltatore, perché probabilmente in questa condizione altri si troveranno. Lei che cosa ha fatto, Pandoli? Ha richiesto la restituzione di quanto era stato inserito in bolletta, oppure ha cercato di mettersi in contatto con Tim, o si è rivolto direttamente a Radio 24? Ci spieghi un po' che cosa ha fatto? Io inizialmente mi sono rivolto al 187, si sono susseguiti fax, registrazioni, migliaia di telefonate per risolvere questo problema, perché io ho cercato di annullare questo contratto, anche perché io l'avevo stipulato con un'altra compagnia dopo, no? Certo. Ecco, ma alla fine voglio dire, lei quello che ha indebitamente pagato in bolletta lo ha ricevuto e lo ha avuto indietro, oppure ancora no? No, io ancora non ricevo nulla. Ho capito. Non ricevo nulla. Allora, torniamo da Gorietti, responsabile marketing consumer di Telecom Italia. Questa parte della pratica, voi come risulta in questo momento? Ecco, no, su questa seconda parte mi trovo un po' lontano da quello che dice il nostro cliente, nel senso che a noi è arrivata una comunicazione scritta di cessazione dell'offerta, che è indispensabile per cessare un'offerta, visto che è stata attivata il 2 di dicembre. E noi abbiamo cessato l'offerta il 7 di dicembre. Ecco, ma è stata attivata non per colpa del cliente, ma per colpa vostra. Beh, noi il cliente aveva non più necessità di l'offerta, formalmente l'abbiamo saputo il 2 di dicembre. Sì. E conseguentemente abbiamo cessato l'offerta 5 giorni dopo, riconoscendo... Questo l'ho capito perfettamente, ma alla base non c'è un errore del cliente, c'è un errore di Tim. No. Alla base c'è, secondo me, un equivoco tra una richiesta e una risposta data al cliente che non chiariva il fatto che quell'offerta era in fase di attivazione. Sì, no, questo detto, Gorietti, questo l'ho capito. Che l'offerta non poteva essere questo attivata. Questo l'ho capito, Gorietti, ma la risposta... Di fondo che c'è stato. Sì, ma la risposta... Sì, noi abbiamo risolto... Sì, no, ho capito, Gorietti, ma... l'offerta e rimborsando il cliente nella prima fattura utile. Oh, ecco, ma allora, intanto l'equivoco è stato, voglio dire, fatto dal vostro centro, quindi voi lo chiamate equivoco, in realtà è un errore. Non è un equivoco, è un errore. L'equivoco è un'altra cosa, quando c'è un misunderstanding su un qualcosa di dubbio. Qui di dubbio c'è poco. Detto questo, la restituzione della parte eccedente dovuta e non dovuta, anzi, dal radioascoltatore, è totale complessivo dall'inizio oppure soltanto dal momento in cui voi avete ricevuto formalmente la disdetta, come mi stava dicendo prima? No, è dall'inizio, chiaramente. È dall'inizio, quindi voi avete ben risolto il caso, nel senso che a questo punto tutto verrà ridato. Abbiamo dato la comunicazione al cliente che si vedrà nelle prossime fatturazioni di maggio, stornato l'importo che lui eventualmente ha debitato dall'inizio, cioè dall'8 di luglio. Bene, bene, ecco, allora questo qui voglio dire, avete risolto il caso in questo modo, cioè avete riconosciuto fin dall'inizio, diciamo così, questo contratto che non è mai nato. Fa piacere che il caso sia stato risolto, io ringrazio ovviamente Fabrizio Corietti, responsabile marketing consumer di Telecom Italia, che ha dato la notizia al nostro radioascoltatore che in fatturazione troverà il rimborso di quanto non dovuto nella prima bollettazione utile. Ringrazio quindi il nostro radioascoltatore Ivo Pandoli, in regia Filippo Regi, in studio Elisabetta Fusconi, e vi auguro una buona giornata.